5A. Ascolta e rispondi. Stamani alle 10 eri a casa? Sì, ero a casa. Ieri eri a lezione? Sì, ero a lezione. La settimana passata eri in questa città? Sì, ero in questa città. Pochi giorni fa eri a Roma? Sì, ero a Roma. Ieri eravate al mare? Sì, eravamo al mare. L'anno scorso eravate in Francia? Sì, eravamo in Francia. Ieri mattina eravate alla stazione? Sì, eravamo alla stazione. In estate eravate all'estero? Sì, eravamo all'estero.